Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Giovedì primo ottobre, Giovedì 1 ottobre del 2009, sono le 14 in punto e questa è Visionari, il consueto appuntamento settimanale con il cinema su Radio Onda Rossa, 87.900, la modulazione di frequenza, ogni giovedì dalle 14 alle 15. E per saperne di più basta consultare la scaletta sul sito www.ondarossa.info, dove troverete il link per riascoltare la puntata precedente, gli ospiti di questa settimana, le uscite in sala di domani e poi i nostri suggerimenti sui film già in programmazione e il link per dare un'occhiata a interviste, recensioni e anche segnalazioni per quanto riguarda i film su piccolo schermo nella settimana televisiva. Cominciamo subito con i nostri ospiti di quest'oggi, un attimo di pazienza. Bentornato Vittorio Moroni, ci sei? Eccoci qui. Eccoci, grazie per avermi invitato di nuovo. Allora, ci eravamo sentiti in occasione delle ferie di Liku, quest'oggi ci sentiamo per un paio di argomenti. Allora, intanto cominciamo col tuo film che è uscito in sala venerdì scorso. E, io non sono riuscito a vederlo, non c'è stata anteprima, e mi riprometto di saperne di più. Allora, noi abbiamo lavorato per te, siccome abbiamo visto che non eri riuscito a venire a vederlo. Grazie soprattutto a un po' di persone che lo hanno amato e hanno attivato quel tam-tam che sempre ha fatto in modo che i nostri film potessero rimanere in sala. Abbiamo saputo che abbiamo conquistato una seconda settimana a Cinema Quattro Fontane. Bene, bene. Quindi, allora, intanto per chi ci ascolta... di ottobre, scusami. Scusami, dicevi? No, che il film quindi ci sarà fino a giovedì 8 ottobre. Ok. Stiamo parlando, per chi ci ascolta, di Eva e Adamo, il tuo nuovo film. E raccontacelo un po' per sommi capi, almeno per far capire di cosa stiamo parlando. Certo. Ma dunque, è la storia di tre coppie, viste dal punto di vista di Eva. Infatti nel titolo alcuni ancora si sbagliano e lo chiamano Adamo ed Eva, ma è importante ricordarsi che è Eva e Adamo. E sono tre storie in cui l'amore viene atteso in luoghi un po' inesplorati e inaspettati. Mm-hmm. Una è una signora ultra settantenne che è sposata da 4 anni con un ragazzo senegalese di 35. Una è una ragazza che fa la telefonista erotica nei programmi in diretta TV, di quelli in cui gli spettatori possono chiamare da casa all'899 e parlare via video con la spogliarellista, e che sta con un ragazzo palermitano molto geloso al quale dice di fare la modella. E la terza storia... Ah, quindi ignaro. Poi nel film si capirà. E la terza storia invece è la storia di Veronica, che è una donna di 35 anni che ha un grande segreto che il film a un certo punto svela, e che a un certo punto della sua vita decide di cambiare completamente strada. Cioè, mentre stava facendo studi d'arte, di scultura eccetera, decide di diventare infermiera, va a Lourdes e lì conosce un uomo più grande di lei che è affetto da sclerosi multipla, quindi sta sulla carrozzina e non è in grado di camminare, di parlare da solo, e decide di vivere il resto della sua vita con lui, di sposarsi e di andare a vivere sulle colline tra Modena e Reggio Emilia. Quindi sono tre storie abbastanza diverse, ma che credo possano creare un discorso comune intorno a una domanda, che è quella da cui è partito tutto, cioè che cos'è l'amore, cioè che quando noi diciamo amore di cosa stiamo parlando, no? Sì, sì. Quante altre cose contiene questo termine, no? Sì, esatto. la cosa, per esempio, a partire dal racconto che ne hai fatto, una cosa che mi incuriosisce molto è una relazione amorosa con un quarantennio di differenza d'età, come la prima storia che raccontavi. Sì. Ecco, dici un po' di più di questa storia. Ma mi faceva notare in effetti uno spettatore l'altra sera che la differenza di età che c'è tra loro è superiore all'età di lui, che pure non è giovane. sì, però no, la cosa che è molto interessante, intanto la cosa che per me è molto interessante, è stato molto interessante nel girare questo lavoro, sì, che è un film documentario, quindi sono storie vere, non sono storie inventate, sono storie che noi abbiamo seguito per diversi anni e che sono... e che contengono però, come dire, un elemento di forte narrazione, nel senso che succedono cose, ecco, non sono tre fotografie di tre situazioni, mm-hmm, sono dei rapporti conflittuali anche, dove accadono nel tempo delle cose. Però la cosa, dicevo, che per me è stata molto interessante era non riuscire mai fino in fondo a capire la risposta di questa domanda, no? Perché io non posso dire che in queste storie non ci sia veramente dell'amore, no? Sì. Dell'affetto, anche dell'attrazione sessuale, eccetera. Sì. Ma al tempo stesso non posso dire che ci sia solo quello, no? Mm-hmm. Che non ci siano anche degli altri bisogni che poco hanno a che fare con l'amore. Quindi, rimane un'incognita comunque l'amore. Guarda, ho notato che gli spettatori in qualche modo si fanno davvero un viaggio ciascuno. Secondo me ognuno di loro in qualche modo mette in relazione queste storie a se stesso, no? Mm-hmm. Anche se sono storie apparentemente un po' estreme, no? Un po'... però contengono delle cose che sono diffuse, no? Cioè che sono presenti nei miei rapporti, nei loro rapporti. Una cosa che mi ha molto impressionato, che non è mai accaduta in nessuno degli altri miei due film precedenti, perché io poi sono sempre lì in sala, entro, non riesco a resistere, mi sbircio, mi nascondo tutto. Quello che ho notato è che questa volta accade che gli spettatori abbiano una reazione diversa alle stesse cose. Mm-hmm. Cioè in certe inquadrature c'è uno che sta asciugandosi le lacrime e un altro che sta ridendo. Quindi questo mi dimostra quanto poi sia aperto il film in un certo senso, no? Cioè quanto ognuno si possa proprio fare un'idea. Io ho cercato come sempre di non giudicarli i miei personaggi, no? Certo. Cioè di guardarli, di osservarli, di mettere in compartecipazione la mia umanità alla loro, però poi ognuno credo si possa fare un po' un'idea personale di questi rapporti. Ecco, arriviamo all'idea di partenza del documentario. Come si è sviluppata, da cosa è partita e poi perché la scelta di storie, come dicevi tu, estreme? Ma allora, in realtà è nato da noi quando abbiamo distribuito Le Ferie di Liku, cioè il mio film precedente, che parlava di due ragazzi bengalesi che si erano sposati con un matrimonio combinato, cioè non si erano scelti ma erano stati in qualche modo scelti dalle rispettive famiglie. Quando io sono andato a presentare questo film per 6 mesi in giro con un camper in tutta Italia, ogni sera parlavo col pubblico del nord, del sud, delle isole, le domande che mi facevano presupponevano secondo me una cosa, no? Era come se quella storia li interessasse ma allo stesso tempo venisse vissuta come una storia un po' esotica, mm-hmm, un po' lontana, sì, no? Che appartiene a un'altra cultura, come se noi in qualche modo fossimo un po' diversi da quel modo di relazionarci, no? E da noi l'amore non fosse vincolato a interessi o a scelte fatte da altri, ma fosse una cosa molto personale, no? Fosse l'amore fosse romantico da noi, libero, eccetera. E quindi a me è venuta subito voglia in qualche modo di andare a scavare un pochino anche in storie italiane, no? Mm-hmm. E quindi a verificare se questa domanda, sì, se questo, sì, presupposto, sì, fosse davvero così vero e puro e assoluto, no? Mm-hmm. E quindi è un po' nato da questo. Ho capito. Poi questi, naturalmente, parlando di personaggi veri, uno non se li può inventare. Abbiamo fatto degli incontri proprio con persone, abbiamo cercato di, anche con gli amici, di dire quale fosse, no, la nostra intenzione. Devo dire che in un caso, nel caso di Erika, cioè della signora anziana, è stata lei a cercarci, nel senso che è venuta a vedere Le Ferie di Liku lei scrive anche dei libri, mm-hmm. è venuta a vedere le ferie di Vico e ha detto: vabbè, sì, questa è una storia interessante, però insomma la mia storia è molto più interessante. Ma non sapete cosa vivo io. E quindi voi dovreste fare un film di finzione tipo Bari tratto da uno dei miei libri che sono autobiografici. E noi abbiamo invece poi deciso che poteva essere davvero interessante la tua storia se, come dire, riprese in un modo un po' più documentaristico. Oh, Vittorio, a questo punto sono curioso anche di un'altra cosa, ossia il tuo sistema distributivo, totalmente autogestito, possiamo dire così? Sì, noi abbiamo cominciato così in realtà con il mio primo film, D'esordio, che è un film di finzione, con gli attori e tutto, che nessuno si voleva distribuire, per cui avevamo fatto un'associazione culturale che si chiamava Myself, perché ci sembrava, io personalmente ci avevo messo 7 anni della mia vita a farlo, mm-hmm. ma soprattutto anche le altre persone che ci avevano lavorato ci avevano veramente messo il cuore, l'anima, il sangue, il sudore, ed era inaccettabile, era proprio irresponsabile verso noi stessi non dargli quella possibilità di incontrarsi col pubblico, no? Che poi magari non gli piacerà il film, però quell'incontro lì è una cosa che non può non avvenire, secondo me, quando uno accetta di fare la fatica immensa di fare un film. E, siccome quell'esperienza andò bene, e il film rimase in sala inaspettatamente per 2 mesi a Roma, Milano, Torino, eccetera, da lì abbiamo cominciato a capire che c'erano delle cose che le grosse distribuzioni non prevedono, c'erano dei resti in qualche modo, cioè che le loro analisi sul pubblico, sui numeri, eccetera, erano troppo fredde per essere vere, no? E che c'era un pubblico che noi avevamo conosciuto, perché facendo noi un lavoro così artigianale sulla distribuzione, io da quando è uscito il film il 25 settembre sono sempre al cinema, cioè la mia nuova residenza è lì, adesso porterò delle brandine, quindi io il pubblico lo conosco come c'è nessun contatto altro, diretto, uno sì, per uno, sì, sì, sì, sì, sì. Tra l'altro a tutti gli spettatori che arrivano noi cerchiamo di regalare una mela del paradiso terrestre quando entrano e un fotogramma del film quando quindi, come dire, la mia sensazione è che c'è un pubblico che non viene conteggiato, che non viene preso in considerazione, è un pubblico incredibile, che è capace di fare un tam-tam emozionante, no? Sì, sì, cioè sì, che sì. È capace di sapere quando un film è bello e piccolo e va atteso, no? E allora va, lo dice. Non c'è altra spiegazione che questa perché io possa capire come mai i miei film che nessuno voleva mai distribuire, e poi vengono confermati sempre oltre la prima settimana. E quindi, cioè, io veramente credo che la più grande soddisfazione sia proprio, cioè, proprio vedere gli occhi, no? Vivi e lucidi degli spettatori, ascoltare le loro parole. Più di qualunque festival, più di qualunque premio, menzione. Ma praticamente voi contattate direttamente le sale, a quanto ho capito. Ma noi adesso siamo diventati nel nostro piccolissimo una società di distribuzione. Quindi siamo 4 persone che vivono di questo lavoro, produzione e distribuzione. Quindi contattiamo le sale, ma la cosa importante non è tanto quella, cioè la cosa che ci distingue un po' non è tanto quella, ma è che contattiamo il pubblico prima delle sale. Cioè noi cerchiamo di creare degli eventi, delle occasioni di incontro durante il mese precedente all'uscita, in modo che si coinvolga già un pubblico, gli si dica: questo è il trailer del film, questi sono i primi 8 minuti del film, ti interessa, per favore aiutaci, se non ti interessa, ok, hai visto che non ti interessa, no? Sì. Se però ti interessa, aiutaci e acquista già ora il biglietto, scontato. Okay. Quindi in questo modo, quando poi noi andiamo a cercare le sale, possiamo essere pronti all'affermazione che già sappiamo che faranno, e cioè nessuno verrà a vedere il tuo film. Non è vero, noi abbiamo già un pubblico che ha già comprato il biglietto. Senti, è in programma oltre a Roma qualche altra città? Prossimamente? Noi in questo momento siamo già a Roma e a Milano, dove il film è stato confermato anche, per cui abbiamo guadagnato la seconda settimana anche a Milano, dove il film sta andando molto bene, e tra l'altro a Milano c'è la bellissima mostra alla Galleria Fish in Via dell'Unione, vicino a Via Torino, dei quadri che sono stati realizzati apposta per il film. E poi usciremo a Torino, Padova, Firenze, già si prepara un tour nelle Marche, Senigallia, Fano, Pesaro, e poi Mantova ci ha già contattato, insomma. Adesso quello che succederà sarà che cercheremo di fare bene nelle grandi città, e poi a un certo punto ridipingeremo il nostro camper che ci ha portato in giro per 35.000 chilometri a presentare le ferie di Liquia, che ai tempi era tutto verde come le locandine di Liquia, adesso diventerà tutto rosa. È chiaro. E speriamo che regga, perché è del 1980. Senti Vittorio, passiamo al secondo punto. Domani c'è la conferenza stampa di presentazione del tuo monologo La Terza Vita, che ha vinto il concorso nazionale di drammaturgia contemporanea. Sì, è capitata questa cosa un po' inaspettata, devo dire, perché io, che sono sempre stato affascinato dal teatro, in realtà non me ne sono mai davvero occupato, no? Confinando e sconfinando tra cinema di finzione e cinema documentario. Però in questo caso devo dire che è stato anche grazie ad un'attrice che si chiama Laura Nardi, che ha letto una cosa che io avevo scritto per un documentario, in realtà un documentario che poi non sono mai riuscito a fare, sulla vedovanza delle donne marocchine che vivono in Italia, cioè su cosa succede quando una donna venuta in Italia col marito è rimasta in Italia per un tempo sufficiente ad avere dei figli, si trova a un certo punto a rimanere vedova, no? Con i figli che sono legatissimi ormai all'Italia, che sono più italiani che marocchini, che hanno molti più amici, molti più interessi, molte più cose qui che non nel paese d'origine dei genitori. E con lei però che non è abituata a dover gestire le cose italiane, che quindi si trova nella incredibile, drammatica, tragica situazione di non sapere se è inevitabile ritornare al proprio paese d'origine, causando a quel punto nei figli uno sradicamento in un certo senso, oppure se sia possibile, cambiando completamente la natura del proprio ruolo all'interno della famiglia, a rimanere da sola in Italia. Quindi questo è il cuore, sì, diciamo, di questa storia, che era nata da una storia vera, quindi era nata come un progetto di documentario. I documentari sono molto difficili da portare a termine, sì. Perché a volte si comincia, poi succedono cose, si perde. Ci vuole sempre un grande consenso, no, da parte della persona che diventa personaggio. E in quel caso è stata una di quelle storie bellissime dalle quali non riuscivo a separarmi, no? Non riuscivo a rassegnarmi al fatto di non essere riuscito a fare quel documentario, quindi ci ho scritto una cosa, no? Cioè l'ho fatta diventare una cosa di teatro, di finzione, no? Lo diventerà spettacolo? Sì, lo diventerà assolutamente, perché questo premio sia Eiti Agis contiene al suo interno la possibilità, un supporto nella produzione e un aiuto nella distribuzione, quindi cose che non abbiamo mai neanche nel cinema. Questo ci incoraggia assolutamente. E a questo punto ci terremo informati sul suo destino, perché poi curiamo anche il radioteatro qui a Onda Rossa. Sarò sempre da voi. Facciamo proprio gli spettacoli dal vivo, in studio. Per cui ti terrò informato anche. Allora, se va male con la distribuzione. Esatto, lo potremmo sempre fare, che poi lo registriamo mentre va in onda, per cui poi sarà scaricabile dal sito, per cui potrebbe essere interessante. Vittorio, in bocca al lupo per tutto e a presto a questo punto. Crepi il lupo, vi aspetto lì alla sala con una mela in mano e un fotogramma del film. T'abbraccio. 4 fontane fino a giovedì 8. Bene, bene. Passa parola, vota Antonio, vota. Ciao Vittorio. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Vittorio Moroni, regista del documentario Eva e Adamo, e parliamo ancora di documentari un attimo. Benvenuto a Carlo Lo Giudice, regista del documentario Padre Nostro, vincitore della terza edizione del Salina Doc Fest. Eccoci qui. Ci sei? Sì. Eccoci. Ciao, Federico. Ben trovato. Allora, come stai intanto? Tutto bene, tutto bene. mi sto godendo il successo del festival, che è sempre una cosa positiva, che carica e dà energie per nuove cose. Allora, cominciamo parlando del titolo, che è curioso, questo Padre Nostro. Sì. Dimmi un po'. Nasce, diciamo, dal film stesso, perché ha questo ruolo centrale, la figura paterna. Sì. E, diciamo, non ha tanto uno spirito religioso, ma più uno spirito, diciamo, il Padre Nostro richiama appunto la figura del padre, un po' anche archetipica, sì, nel senso di una figura centrale. Collettiva. Sì, collettiva, appunto, perché il titolo così, Padre Nostro, in un certo senso diventa un qualcosa che riguarda tutti, perché in un certo senso la figura paterna e questo rapporto padre-figlio è appunto il centro del film, che appunto lavora sull'archetipo, cercando in un certo senso anche rompendolo, un po' facendolo vedere da un'altra prospettiva, che mi interessava molto, perché in un certo senso la figura paterna è una delle figure molto messe in discussione della società di oggi, no? Sì, per cui sì, mi piaceva questo aspetto, diciamo, più universale, ecco, sì, del titolo. Sì, sì, sì. Oh, Carlo, la storia che racconti ha delle caratteristiche di unicità indiscutibili. Grazie. Che cosa, dimmi un po', che cosa ti posso dire? Questo rapporto padre-figlio, sì, intanto come l'hai scoperto e poi come l'idea di farne un film, e poi sicuramente ha dei, come dicevo prima, ha dei tratti di unicità che non, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, per quello che vedo intorno a me, insomma, mi sembra abbastanza unico. Sì, diciamo che il film è nato in maniera molto spontanea, molto naturale, perché conoscevo il protagonista da tanti anni. Avevo sempre, diciamo, notato questo rapporto particolare che ha col padre di vicinanza, così, questo rapporto così fisico, che in un certo senso mi colpiva in quanto proprio elemento visivo, ecco. Sì. E poi mi piaceva perché avevano questa libertà di rapporto che in un certo senso è oltre il comune sentire, no? Aveva qualcosa di più, però senza diventare mai eccessivo, senza diventare, era qualcosa di vero, di profondo. In un certo senso io del film ho seguito questa immagine che è forte, che mi si è presentata davanti, e in un certo senso è stato un modo di procedere molto, diciamo, naturale, e anche work in progress, cosa che secondo me, diciamo, dei documentari è fondamentale, anche sì, è un modo che io seguo spesso, diciamo, è come se seguissi un istinto primario e poi strada facendo vedo che cosa la storia mi racconta, ecco, questa è una cosa che, diciamo, di differente hanno i documentari, cioè la possibilità in un certo senso di essere più slegati dalle strutture narrative, sì, cioè dalla sceneggiatura, dagli obblighi, diciamo, degli step classici del cinema, no? Per cui che ben venga questa libertà in più che ha il documentario, diciamo, ho cercato di sfruttarla al massimo seguendolo per molto tempo, seguendo, diciamo, questo istinto iniziale, poi strada facendo, diciamo, la vita stessa che scorreva ha in un certo senso poi scritto la storia, ecco. Sì, sì. Io come cosa centrale mi sono semplicemente posto il fatto di essere più invisibile possibile, di essere paziente, stare là a vedere quello che succedeva, e quindi questo è stato il grosso del lavoro, cioè cercare di, diciamo, di esserci, ecco. Sì. Queste era la cosa principale. E da questo esserci sei rimasto sorpreso di qualche aspetto di questo rapporto così profondo? Certamente la cosa che mi colpisce di più è questa, diciamo, questa libertà proprio mentale che loro hanno, e questo in un certo senso andare oltre le regole sociali, questo essere, diciamo, è come se il loro rapporto va oltre quelle che sono, diciamo, i dettami poi della società, del fatto che la gente si può impressionare a vedere un padre e un figlio che si baciano, a vedere un padre e un figlio che diciamo così attaccati, così uniti, perché il film appunto racconta poi la storia, diciamo, in un certo senso quest'amore, più che altro, diciamo, un'unità di, cioè, un incontro di caratteri, che è particolare, cioè proprio si completano in un certo senso, poi tenendosi con questo legame così forte, che per certi versi è una prigione, per altri versi invece viene tramutato in libertà. Questa è la cosa che mi piaceva, il fatto che questo legame non è un problema, ma diventa una risorsa, un nutrirsi, no? A sì, vicenda. Sì, sì, sì. Ma fondamentalmente la cosa che mi colpiva proprio era visivamente l'elemento, cioè proprio la parte estetica del, proprio direi così, la definirei così, proprio molto estetico lui, soprattutto il vecchietto, no? Vannino, sì, è molto estetico, cioè proprio. E credo che, come dire, in un certo senso questo spunto iniziale avesse già l'energia per andare avanti, perché poi, diciamo, in un certo senso l'amore è un po' l'elemento che è dentro tutte le storie, no? Sì, in un certo senso. Quindi avevo gli elementi centrali per raccontare, sì. Li ho seguiti, ecco questo. Carlo, io sono stato a Salina, ho seguito anche quell'incontro che c'è stato in cui si è parlato di diversi documentari, tra cui il tuo, e mi sono interessate le cose che hai detto riguardo al tuo rapporto personale con la televisione, il tuo rifiuto della televisione, e visto poi questo panorama di grosso fermento che c'è intorno al documentario, mi chiedevo, secondo te quali potrebbero essere e quali ti piace seguire rispetto alle vie che può prendere il documentario per arrivare al pubblico in maniera più diffusa? Sì. Diciamo, nella discussione, in effetti, più specificamente non è tanto un rifiuto della televisione, ma è un'osservazione sul fatto che la televisione, in un certo senso, da un punto di vista di palinsesto, quindi di tempi che detta, in un certo senso si può intendere che è qualcosa, potremmo definirla, di antinarrativo, nel senso, perché la narrazione è passata sulla libertà del tempo, per me, per il mio modo di vedere, quindi non è un atteggiamento, tra virgolette, snobbistico, di rifiutare la televisione per principio, per un fatto di qualità, ma perché la televisione, in un certo senso, è altro perché ha cioè, in un certo senso, in quest'ultimo periodo sta trovando un suo linguaggio, secondo me sta facendo un percorso di finalmente di maturazione, che poi inevitabilmente va verso una maturazione, per me in negativo, nel senso che comunque poi la televisione va verso qualcosa che è alla fine appunto diverso dal narrare, dalla libertà che deve avere necessaria che deve avere un narratore per raccontare una storia. Sì. E anche perché la televisione è governata dalla logica del denaro, per cui la logica del denaro in un certo senso poi obbliga a certi tempi, a certe durate, a certi condizionamenti, per cui quello che dicevo io all'incontro è che se si parte a monte da un discorso, cioè, di investimento televisivo, per cui il film è proprio pensato dall'inizio per la televisione, è un discorso dignitosissimo, io sarei il primo a farlo, ma se si parte da un fatto di acquisto di un film che già c'è, che già esiste, e bisogna incastrarlo all'interno della televisione per forza, e quindi appunto la mia discussione è una discussione proprio machiavellica, nel senso che in un certo senso bisogna sacrificare il film, cioè bisogna, se lo si dà alla televisione non bisogna aspettarsi rispetto, bisogna, quindi nel momento la cosa un po' provocatoria che dicevo era che se lo si dà alla televisione bisogna essere disposti a cedere in un certo senso, perché combattere è come una partita persa in partenza, ecco. questo era più che altro il discorso, ma io credo che in un certo senso questa specificità che sta acquisendo la televisione con il reality, con quello che sta succedendo adesso, no? Con i talent show eccetera eccetera, che secondo me sono proprio la parte più, tra virgolette, popolare, sana della televisione, e poi se uno gli piacciono o no è un altro discorso, però se nel momento in cui c'è una specificità della televisione è un fatto storico, nel senso c'è un passaggio ad altri mezzi che in un certo senso possono essere la ricchezza del documentario, quindi distribuzioni nei festival, distribuzioni via internet, siti personali, poi bisogna vedere anche qua, siccome internet è un mezzo tra virgolette nuovo, bisogna vedere se si svilupperà in senso, diciamo, utile per il documentario, per la narrazione. Il problema è che dal mio punto di vista come autore devo vedere, devo necessariamente cercare i miei spazi di libertà per raccontare, perché sennò il mio mestiere in che cosa consiste? Certo. Cioè, io non posso mettermi a fare, diciamo, il distributore, perché non ce la faccio, perché non è il mio lavoro, per cui secondo me è importante avere i ruoli, che è un po' quello che poi manca, no? In Italia, cioè, nel senso che c'è questa confusione delle cose che non si capisce, per cui bisogna dedicare 50% delle proprie energie a trovare i soldi, 30% a distribuire, 10% a pensarlo e 5% poi per farlo, cioè, mi sembra un po' troppo lo sforzo. Sì, ecco. Carlo, c'è un sito di riferimento per il tuo documentario? Purtroppo no, questo no, a breve spero di realizzare, anche questa è un'altra delle problematiche, c'è bisogno di tempo anche per fare questo, quindi internet ci potrebbe venire contro invece che a favore. Speriamo bene. Vabbè, allora, se speriamo di saperne di più presto, intanto ti dico in bocca al lupo e ti abbraccio. Grazie Federico, a presto. Ciao. Carlo Giudice, regista del documentario Padre Nostro, vincitore della terza edizione del Salina Doc Fest, conclusasi sabato scorso. Andiamo avanti e questa volta parliamo di festivals. Benvenuto a Pierpaolo De Fina, direttore della seconda edizione di I've Seen Films, Festival Internazionale di Cortometraggi a Milano dal 24 settembre al 3 ottobre. Ben trovato. Buongiorno a tutti. Direttore della seconda e anche della prima, devo dire, edizione del I've Seen Film International Short Film Festival, che tra l'altro l'anno prossimo diventerà International Film Festival, perché già abbiamo in previsione, sull'onda del successo di quest'anno, una sezione dedicata anche ai lungometraggi. Sì. Questo è un festival un po' particolare, perché è un festival che è nato da un'idea di Rutger Hauer, che in questo momento è a Milano e che è il presidente di questo festival, ed è un po' particolare anche perché è particolare anche la giuria di grandissimi nomi che lui è riuscito l'anno scorso e ancora di più quest'anno a mettere insieme. E quindi parliamo di Ridley Scott, parliamo di Robert Rodriguez, di Lech Majewski, di Miranda Richardson, di Paul Verhoeven, di Anton Corbijn, che in questo momento sta lavorando con Clooney a un film proprio qua in Italia. Però parliamo anche del nostro Eugenio Cappuccio, ad esempio, di Daniela Catelli di Coming Soon, di Teresa Cavina, già co-direttrice del Festival di Roma, di Roberto Nepoti. Pensa che Daniela Catelli, Christopher Nolan, che è stata l'ultima nuova entrata, che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, ed è forse più giovane dei grandi nomi. Tra l'altro ti volevo dire che Daniela Catelli è stata spesso con noi qui a Visionari, ci parlava dei film, era una redattrice proprio della trasmissione. Certo. Senti, allora, dicevi di un successo di questa edizione, che è partita il 24 settembre, quindi siamo in pieno svolgimento. Dici un po' come sta andando. Intanto c'è da dire una cosa: il primo successo dei festival è prima, molto prima che cominci il festival, ovvero sia quando devono arrivare i lavori da tutto il mondo. Sì. Noi abbiamo ricevuto oltre 3.000 lavori da quasi 100 nazioni, tutti di altissimo livello. È stata difficilissima la selezione, quindi, dalla quale si sono salvati praticamente, dovevano essere un centinaio i lavori in concorso, ne abbiamo 231 da 70 paesi. e questo perché abbiamo avuto delle grandissime difficoltà nel diciamo, fare una selezione finale, né abbiamo voluto fare una selezione ufficiale in concorso e una vetrina. Sì. Tenete presente che il festival si prefigge anche lo scopo di diffondere questi lavori bellissimi di qualità, quindi fa un discorso di diffusione. Quindi anche in quest'ambito abbiamo preferito metterli tutti allo stesso livello, quindi saranno tutti all'interno anche del catalogo della manifestazione, piuttosto che creare vetrine, concorsi, oppure differenziare, ghettizzare, diciamo, certo, come dico, certo, io, una parte di lavori che comunque rimangono dei bellissimi lavori anche se non vinceranno i premi principali del festival. Sì, e sì, così sì. Ci piaceva presentarli, quindi senza fare una differenziazione a priori. Sì, sì. Pierpaolo, noi dedichiamo particolare attenzione al documentario, però vedo che anche al cortometraggio, intorno al cortometraggio sta nascendo una nuova attenzione, ci sono festival dedicati al cortometraggio. Come vedi questa situazione e come vedi le prospettive per darne visibilità a un pubblico? Allora, noi siamo riusciti a far partire una cosa meravigliosa che è la collaborazione con Microcinema Digital Network, grazie alla quale i cortometraggi degli autori che ovviamente ci hanno consentito di farlo, perché non tutti gli autori consentono una circuitazione a 360 gradi, ma molti limitano la loro partecipazione alla sola proiezione nel concorso. Noi in oltre 100 sale del circuito Microcinema Digital Network, con l'aiuto anche dell'Agenzia Spaziale Europea, diffondiamo quasi un centinaio di cortometraggi del festival, che vengono presentati in testa ai lungometraggi, antichissimo sogno degli autori. Quindi abbinati a dei film. Abbinati a dei lungometraggi in programmazione, assolutamente, oppure presentati in compilation come una programmazione a sé stante. Diciamo. Questo in sale che vanno dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, assolutamente. Oltre a ciò, il Digital Network di Microcinema, che è un network, come dicevo, satellitare, è connesso con altri network simili in Svezia, in Spagna e anche in Africa addirittura, dove in differita verranno trasmessi questi cortometraggi, così come verrà trasmessa in diretta e in differita in tutto il network e anche nei network stranieri la serata di gala del festival, che sarà veramente un grandissimo tributo agli autori in stile, direi, hollywoodiano, anche perché noi siamo assolutamente tutti in inglese, quindi tutto il festival è in lingua inglese, assolutamente. Novità, è difficilissimo fare una cosa così in Italia, attualmente la stiamo facendo per primi, poi forse ci copieranno tutti, non lo sappiamo, ma del resto parlare inglese è l'unico modo per aprire veramente ad una comunità di filmmaker a livello internazionale, certo. Piuttosto che fare dei festival italiani che di internazionale hanno soltanto il far vedere dei lavori che vengono da fuori dall'Italia, ma l'internazionalità vera non è soltanto quello, è anche mettere in condizione i filmmaker di poter parlare fra di loro, e se vogliamo veramente che filmmaker di tutto il mondo comunichino fra di loro, siamo costretti ad utilizzare la lingua inglese, che è l'unica che ci consente veramente una comunicazione a 360 gradi. Pierpaolo, in chiusura, ci dai un sito internet di riferimento per il programma? Assolutamente, allora due cose in chiusura, se mi permetti. Sì. Allora, il sito internet del programma è www.icfilms.org. Sì, ICFilms. E poi io non posso fare altro che invitare tutti gli appassionati al festival, ricordando comunque che anche agli italiani abbiamo avuto delle manifestazioni di assenso da questo punto di vista, che non c'è niente di meglio del cinema per imparare le lingue, se non ci costringiamo a doppiarli per forza sempre e comunque, certo. Tasto dolente specialmente degli italiani, quindi io invito tutti a venire al festival, invito tutti assolutamente alla serata finale tributo agli autori il 3 di ottobre a Milano presso il Cinema Gnomo di Via Lanzone. dove tra l'altro saranno sala presenti. Di qualità, diciamolo. Come? Sala di qualità lo gnomo, insomma. Assolutamente, da sì. Sempre sala di qualità e attualmente la sala del comune di Milano. Quindi dicevo, saranno presenti Rutger Hauer, Lech Majewski, che sono già a Milano, e come ultima sorpresa verrà anche Miranda Richardson. Per cui ovviamente non avremo tutta la giuria al completo che ha giudicato dai rispettivi luoghi di lavoro. Tra l'altro abbiamo anche dei bellissimi aneddoti dove addirittura Christopher Nolan ha visto i cortometraggi in una tenda nel deserto a Tangeri mentre girava il suo ultimo film, per cui ci piace avere comunque questi personaggi come collaboratori attivi del festival e non come star che vengono a farsi vedere e poi se ne vanno. Assolutamente, poi un po' alla volta riusciremo ovviamente ad averli qui a Milano, anche perché si tratta comunque di persone con alle quali Mr. Hauer è legato, e quindi anche negli anni a venire non avremo difficoltà ad averli. E sono, volendo parlare di distribuzione, di diffusione, di aiuto ai filmmaker nel farsi conoscere, senz'altro avere un premio in questo festival collegato a questi nomi, io penso che possa essere veramente d'aiuto, veramente d'aiuto soprattutto ai giovani filmmaker emergenti. Bene. Per Paolo un abbraccio, in bocca al lupo. Grazie. A presto, ciao. Grazie, arrivederci. Pierpaolo De Fina, direttore della seconda edizione di I've Seen Films, Festival Internazionale di Cortometraggi a Milano dal 24 settembre al 3 ottobre, e passiamo ad un altro festival. Livio Jacob, direttore, anzi presidente della 28ª edizione delle giornate del cinema muto a Pordenone dal 3 al 10 ottobre, eccoci qui. Buongiorno a lui allora. Come va? Bene, siamo come sempre così, con l'acqua alla gola, ma insomma tutto a posto per il resto, ma un po' d'ansia ci vuole sempre. Allora, dici un po' le caratteristiche di quest'anno del festival, cosa c'è di in continuità con le edizioni precedenti e invece quali novità? Beh, diciamo, abbiamo l'anno scorso abbiamo chiuso con la lunga serie e anche di grande successo da tutti i punti di vista di film di Griffith, e quindi quest'anno volevamo iniziare un'altra serie, così insomma, ci abbiamo pensato per un po', e poi abbiamo deciso che l'argomento poteva essere i grandi film muti, così trascurati o dimenticati, quelli che hanno avuto insomma magari successo anche all'epoca ma che poi sono stati dimenticati, poi sono stati visti nei decenni scorsi e non si vedevano da un po', e li riproponiamo in una sezione che si chiama Il Canone Rivisitato e che comincia quest'anno e poi andrà avanti per gli anni a venire, insomma. Mm-hmm. E all'interno di questa sezione si troveranno filmoni tipo i Dieci Comandamenti, tipo il Golem, Jacuzzi, c'è anche un film italiano di Camerini, Rotaie. Mm-hmm. Insomma, vogliamo un po' fare i conti con questi classici, capire se hanno ancora lo status di classici e poi vedere come si comportano con le giovani generazioni e soprattutto come si comportano le giovani generazioni con loro, insomma vedere che rapporto c'è adesso con questo tipo di cinema. Questa è un po' la nostra scoperta di quest'anno. Dopodiché abbiamo le nostre abituali, i nostri abituali percorsi. Per esempio quest'anno ci sono due sezioni particolarmente ricche, una dedicata a Sherlock Holmes e ai film realizzati attorno a Sherlock Holmes, insomma nella fine degli anni, soprattutto a fine degli anni 10 e durante gli anni 20, con Conan Doyle ancora in vita che controllava più o meno tutto quello che usciva, e con Sherlock Holmes diciamo le riduzioni ufficiali, ma anche quelle apocrife, quelle fatte un po' così, insomma, di contrabbando. E l'altra sezione invece particolarmente interessante, che continua un po' la nostra esplorazione del cinema francese, è dedicata all'Albatros, una casa di produzione costituita negli anni 20 da un gruppo di cineasti russi, esuli, che hanno abbandonato la Russia dopo la rivoluzione e che si sono stabiliti per la gran parte in Francia, ma anche altrove, ma soprattutto in Francia. In Francia hanno dato origine a una casa di produzione che ha prodotto un sacco di film fondamentali per l'epoca, ma oggi ancora una volta quasi completamente dimenticati, e sui quali noi faremo un riepilogo, insomma, anche piuttosto consistente, che però ci permette di fare il punto anche sui restauri che la Cinémathèque française sta facendo a proposito di questa casa di produzione. Restauri che sono anche che vengono anche particolarmente bene, perché ci sono quasi tutti i film sopravvissuti e ci sono anche i materiali di contorno, i manifesti, le attrezzature e quant'altro, insomma, quindi un lavoro, diciamo così, abbastanza, non dico semplice, ma insomma rispetto ad altri casi in cui il film era spesso ma ridotto, incompleto e così via, nel caso dell'Albatros i film sono quasi sempre completi. Livio, il grande fascino di questo festival, delle giornate del cinema muto, sono le proiezioni di film in bianco e nero musicati dal vivo, e volevo chiederti, il pubblico apprezza negli anni questa caratteristica che lo rende unico come festival, e riporta un po' in quella dimensione di sogno nella quale è nato il cinema? Beh sì, perché insomma il fatto che poi dopo 28 anni si continuino a ritrovare, cioè ad avere un pubblico, perché un pubblico c'è sempre, quello che ci segue, poi è un pubblico anche locale, regionale, nazionale ed internazionale, insomma, cioè, è un punto di riferimento diventato il festival per chi lavora nel settore così, insomma, del recupero dei film, delle cineteche e così via. Però è anche vero che si tratta di materiali che hanno a che fare con sì, sono stati realizzati insomma 70, 80, anche 100 anni fa, anche di più, e quindi insomma sono materiali piuttosto antichi, quindi fare i conti col pubblico di oggi, con le esigenze di oggi è piuttosto difficile, però i risultati ci sono, siamo continuamente seguiti, sarà anche per via del fatto che li proiettiamo bene, c'è sempre la musica, la qualità dello schermo, della proiezione, la velocità è quella giusta, insomma ci sono tutta una serie di cose che curiamo e che quindi per i quali siamo poi gratificati, insomma, a livello internazionale. Bene, allora diamo anche il sito delle giornate? Sì, allora il sito è www.giornatedelcinemamuto.it. Benissimo. Dove si può scaricare il programma completo e il catalogo. Benissimo, ricordiamo allora Pordenone dal 3 al 10 ottobre, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Alla prossima. Grazie, ciao Livio. Livio Jacob, direttore, presidente, scusate, della 28ª edizione delle giornate del cinema muto. E terminiamo con un altro festival quanto riguarda la settimana prossima. E ben ritrovato a Tommaso Mottola, direttore della 16ª edizione di Capalbio Cinema International Short Film Festival dall'8 all'11 ottobre. Eccoci qui. Come Ciao, stai? Buongiorno, bene, bene, grazie, lavoro. Allora, manca una settimana, dici un po' cosa bolle in pentola. Allora, bolle in pentola che riapriamo un cinema, abbiamo avuto poco fa gli auguri anche da Tornatore. Ah. Riapriamo un piccolo cinema, è un atto simbolico e da questo partiamo con la 16ª edizione, in cui concentreremo tutte le nostre forze per valorizzare questa sala, dalla mattina alla sera per la prima volta, perché noi eravamo solo proiezioni serali. Sì. E quindi questo per noi è una grande opportunità, perché possiamo intanto, per aver spostato la data a ottobre, avere scuole aperte, università più in contatto con noi e quindi diciamo una maggiore affluenza di studenti. La sì. seconda cosa è che programmiamo dall'inizio della mattina e quindi abbiamo tantissimo materiale rispetto agli anni passati. Sì. E la formula che stiamo proponendo ai giovani per venire a Capalbio è di quelle che molto convenienti, quindi insomma vogliamo anche dare il segno che Capalbio apre ai giovani, cosa che non potevamo fare in passato avendo una piccola piazza gremita a sera e non riusciamo a far entrare tante persone. Sì. Le novità importanti sono che lanciamo dei temi, non abbiamo mai fatto in passato, sono anche grandi temi, alcuni di questi secondo noi anche necessari. E segnalo quello sull'utopia, che è il tema della giornata conclusiva, ogni giornata ha un tema. E sull'utopia lanciamo anche forse la più bella azione, abbiamo l'omaggio a Bellocchio durante tutta la settimana. Bellocchio forse è il regista che più ci è sembrato raccontare l'Italia con grandissima rilevanza quest'anno. E se non sbaglio sarà anche presente. Sarà presente, questa è la cosa bella, e la cosa ancora più bella è che avremo proprio sull'utopia un incontro a cui stanno chiedendo di partecipare tantissimi. È nato come una sorta di incontro tra due generazioni sull'utopia, a cui verrà anche Saverio Costanzo. Quindi sono due registi che ci sembra che ci abbiano anche una grande sintonia tra di loro. E la mattina alle ore 11. Che giorno questo? Di domenica 11 alle ore 11. Condotto da Laura Velicolli, avremo questo match sull'utopia, due generazioni che ci parlano nel cinema, e abbiamo tantissimo materiale che Bruno Roberti ha raccolto, il critico di Fincritica ci ha di nuovo regalato un'enormità di film da presentare, tutti corti, sempre corti, e avremo sull'utopia una maratona. Ma ci sarà per esempio una maratona anche sul futuro, che è la giornata di sabato, e anche lì con tutto quello che è stata la visione del futuro degli autori dall'inizio, direi quasi dopo Lumière, fino ai giorni nostri. Quindi sarà anche una interessante questa parte, diciamo, più filologica. Bene, del bene. Festival. Naturalmente c'è il concorso, che è la nostra creatura, la nostra più affezionata creatura, che ancora per quest'anno è in pellicola. Abbiamo pochi film quest'anno, abbiamo deciso di dare più spazio anche agli argomenti e agli approfondimenti. Senti Tommaso, qual è la mole di, appunto, rimanendo in discorso, di opere presenti e da quanti paesi provengono? Sono in concorso 14 opere da 9 paesi, c'è una forte presenza italiana per la prima volta. E c'è un Focus Italia fuori concorso, tanti altri film di autori che sono stati a Capalbio all'esordio, o di attori che oggi sono famosi e che faranno con noi delle piccole lezioni di cinema. Ricordo tra gli altri Sassanelli, Paolo, la Tognazzi, la Valentina Cervi, la Michela Cescon, Giannini, il giovane Giannini, che sono tutte persone che hanno gravitato intorno al Festival di Capalbio e che ritornano da noi per delle piccole lezioni di cinema pomeridiane condotte da Laura Velicolli e da Maurizio Di Rienzo. Bene. Tommaso, diamo anche a questo punto gli estremi internet, il sito del festival. Allora, www.capalbiocinema.com, lì trovate, credo domani o dopodomani, anche informazioni sull'accesso a Capalbio per gli studenti. E ringrazio tantissimo chi ci ha aiutato, in particolare il cinema, se non era per il sindaco non si poteva riaprire, e ci tengo a dirlo. E vi aspettiamo tutti dall'8, giovedì 8, con la prima giornata dedicata alla memoria e con il premio alla memoria Michelangelo Antonioni, che ricordo è stato nostro padrino e che la giunta comunale finalmente ha scelto di dare un premio importante in ricordo di questo maestro. Bene, un abbraccio, in bocca al lupo. Grazie ragazzi. A ciao. Presto, ciao. Tommaso Mottola, direttore della 16ª edizione di Capalbio Cinema International Short Film Festival, dall'8 all'11 ottobre. Dovremmo farcela anche per un ultimo collegamento. Marco, ci sei? Sì, sono qua. Oh, intanto ben trovato. E volevo dirti, parliamo un po' di questa proiezione che si svolge questa sera al Nuovo Cinema Aquila, e con l'occasione ricordo anche che al Nuovo Cinema Aquila si sta svolgendo la seconda edizione del Festival del Cinema. Ti blocco subito perché non è al Nuovo Cinema Aquila, non è lì. Comunque non è lì? No. Ah. Sì. Ok, adesso ti dico. Vabbè, allora intanto dico questa cosa, che al Nuovo Cinema Aquila è in svolgimento il secondo festival del cinema curdo dal 29 settembre al 3 ottobre, quindi per chi volesse saperne di più c'è modo di informarsi. E invece per quanto riguarda questo documentario, allora a questo punto dici tutto te. Sì, no, allora, innanzitutto l'appuntamento sì. È oggi pomeriggio alle 6 presso Cinecittà Campus, sì. In via Quinto Publicio 90, nel decimo municipio di Cinecittà. E come associazione di Albasta abbiamo l'onore, a questo punto potrei dire l'onore, di presentare qui in Italia il film Corazon del Tiempo, sì. Che è il primo film prodotto e realizzato dagli Zapatisti, possiamo quindi, a buon merito dirlo con tranquillità, per la regia di Alberto Cortés, con la sceneggiatura di Alberto Cortés e di Herman Bellinghausen, sì. Che tra altre cose ho l'onore di avere qui con me in questo momento, anche se... Intanto salutacelo, purtroppo non potremo sentirlo perché siamo un po' ristretti, però insomma comunque. Questo film sostanzialmente è una storia d'amore, detta così può essere banale, però in realtà dietro questa storia d'amore il film lascia intravedere quella che è la lotta degli zapatisti per l'autonomia che dal 94 hanno intrapreso. Sì. E quindi si intrecciano diversi piani seguendo appunto questo filo conduttore di questa storia tra due ragazzi, un insurgente, un tenente dell'esercito zapatista e una ragazza Sonia delle comunità insomma insurgenti. Senti, in quanto tempo è stato realizzato questo lavoro? Il film ha richiesto circa un anno di lavoro, se non sbaglio, mm-hmm. Se non ricordo male. E la cosa interessante appunto è che è un film realizzato dagli zapatisti, nel senso che gli attori sono compagni delle comunità, quindi non professionisti, sì. Ho svolto dei laboratori e grazie a questo quindi, poi hanno avuto la possibilità anche di realizzare questo film. Tra l'altro il film sta avendo un ottimo successo in Messico, mm-hmm. E è stato presentato anche al Sundance Festival negli Stati Uniti, sì. Un altro festival importante qui in Europa, a Pamplona se non sbaglio, a San Sebastian, è stato presentato anche in Inghilterra e ha avuto in tutti i posti dove diciamo sì, viene rappresentato ottimi successi, non solo di incasso, che tra le altre cose vorrei sottolineare che tutto l'incasso del film viene devoluto completamente alle comunità zapatiste in Messico. Bene. Quindi anche questo qui è un altro buon motivo diciamo per venire oggi alle 6 a Cinecittà Campus in via Quinto Publicio 90. Bene, volevo chiederti, è prevista una qualche forma di distribuzione qui in Italia oltre alla proiezione di oggi? Allora, noi siamo in contatto costante con la produzione messicana, sì. Abbiamo chiesto la possibilità per una distribuzione un po' più diciamo così, diffusa sul territorio alla Fandango, sì. Attualmente come dire, stiamo vedendo come, altrimenti potremmo pensare pure a una nostra distribuzione un po' più diciamo così, autonoma, comunque nei circuiti più vicini a noi, ecco. Ed esiste un materiale consultabile in rete? Sì, allora potete come dire linkare al cioè partendo dal nostro sito www.yabasta.it oppure da www.globalproject.info, da lì potrete poi come dire, linkare verso la Bataclan Cine, che è la società che ha prodotto il film in Messico, e lì potrete avere tutte le notizie sul film. Bene, allora io ti saluto, in bocca al lupo per questo lavoro. Ok, grazie mille, un saluto anche da Herman. Ok, grazie, salutacelo, grazie, ciao. Ciao. E a questo punto siamo in chiusura, l'appuntamento con Visionari è per giovedì prossimo, sempre dalle 14, e per saperne di più basta consultare il sito della radio, ossia www.ondarossa.info. Buon proseguimento.